I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Sul rischio Grecia, i mercati hanno scherzato? In realtà la calma di ieri rischia di essere solo apparente ed è probabile che le tensioni sul fronte greco andranno avanti ben oltre il 25 gennaio, data delle elezioni in Grecia, anche perché con ogni probabilità Tsipras sarà costretto a fare una coalizione di governo e questo richiederà più tempo del previsto. Ma alla fine è altrettanto probabile che una soluzione per rinegoziare il debito greco, probabilmente allungando le scadenze, verrà trovata. Non è interesse di nessuno, nemmeno della Germania, infatti in questo momento aprire un nuovo fronte di scontro. C'è già il fronte valutario, ci sono le tensioni con la Russia, nessuna voglia di riaprire le praterie della speculazione sull'eventuale uscita della Grecia dall'euro. Ecco che allora le dichiarazioni, indiscrezioni, poi ritrattate provenienti dalla Germania, secondo cui si starebbe studiando l'ipotesi di un'uscita della Grecia dall'euro, visto che Irlanda e Portogallo in realtà sono ormai in buono stato di salute, sembrano più tattica, un fare la faccia feroce per poi arrivare comunque vada ad un accordo che salvi la faccia dell'Europa, ma anche la sostanza della Grecia. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. È un'altra giornata pesante sul fronte dei dati economici. Oggi siamo letteralmente sommersi da numeri e percentuali dell'Istat su occupati, inoccupati, attivi. Proviamo a capire che cosa realmente dicono queste cifre. Il tasso di disoccupazione, che indica le persone che stanno effettivamente cercando un lavoro, a novembre sale ancora, è salito ancora, ha raggiunto il 13,4%, è il valore più alto da 37 anni a questa parte. Tra i giovani fino a 24 anni il tasso di disoccupazione è salito al 43,9%, vuol dire che ci sono circa 730.000 under 25 in cerca di occupazione, ma è il numero degli occupati, delle persone occupate, che crea ancor più allarme, e questo perché il tasso di disoccupazione più può aumentare in quanto aumentano le persone che si mettono effettivamente a cercare lavoro, magari perché hanno più fiducia di poterne trovare uno. Il numero degli occupati invece indica i nuovi posti di lavoro che ogni mese vengono creati, oppure quelli che si perdono. Bene, a novembre ci sono stati 48.000 occupati in meno, 48.000 posti di lavoro svaniti nel nulla. In due mesi, ottobre e novembre, sono stati persi oltre 100.000 posti di lavoro, il che praticamente azzera quel beneficio che si era creato dopo il varo del decreto Poletti la scorsa estate. Allora, bastano queste cifre per capire quanto la disoccupazione resti la nostra principale emergenza. Ora avremo il Jobs Act, avremo forse una boccata d'ossigeno grazie agli sgravi previsti per le aziende che assumano, ma è chiaro che senza misure per lo sviluppo, senza ripresa dei consumi e senza ripresa degli investimenti, il mercato del lavoro non riuscirà a uscire da questa crisi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.